Un giorno, mentre Gesù stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui, ed egli domandò loro: «Chi dice la gente che io sia?» Essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Luca 9, 18, 20. E Matteo. Le domande che Gesù rivolgeva ai discepoli non erano state dettate dalla curiosità, e neppure perché voleva sentirsi dire delle belle parole, ma perché i discepoli potessero raccogliere le loro idee e metterle a fuoco per sapere chi stavano seguendo ciecamente. A volte agiamo per istinto. Prendiamo delle decisioni senza una vera ragione razionale, e per questo Gesù non gradisce molto volentieri che lo professa o lo segue senza rendersi pienamente conto di quello che sta facendo. Siamo ormai arrivati a 5 miliardi di persone e domandando chi sia Gesù molto probabilmente in riscontro si otterrebbero altrettante opinioni in merito. Gesù chiese ai discepoli che cosa pensasse di lui la gente e i suoi fedeli seguaci riportarono l'opinione altrui, secondo la quale egli era Giovanni il Battista, Elia, Geremia o uno dei profeti. Questa era l'opinione dei suoi contemporanei. Eppure i suoi contemporanei lo stavano vedendo, udivano le sue parole, molto di loro avevano avuto occasione di avere un incontro ravvicinato per strada, al mercato o in sinagoga. Ma, nonostante tutti lo vedessero, lo udissero, ognuno ne traeva una opinione diversa. Com'è difficile conoscere una persona? L'apologista evangelico C.S. Lewis, nel suo libretto Diario di un dolore, scritto in occasione della morte di sua moglie, rendendosi conto di quanto sia facile avere opinioni sbagliate sia sul prossimo che di Dio, scrive: «Non la mia idea di Dio, ma Dio. Non la mia idea di H, cioè sua moglie, ma H. Sì, e anche non la mia idea del prossimo, ma il mio prossimo». Forse che non facciamo spesso questo errore con chi è ancora vivo, con chi è accanto a noi nella stessa stanza. Rivolgendo le nostre parole e le nostre azioni non all'uomo vero, ma al ritratto, al riassunto, quasi, che ne abbiamo fatto nella nostra mente. E bisogna che lui se ne discosti in modo radicale, perché noi arriviamo ad accorgercene. Nella vita reale è una delle differenze tra la vita e i romanzi. Le sue parole e le sue azioni, a osservarle bene, non sono quasi mai perfettamente in carattere con l'immaginazione che abbiamo di lui. Nella sua mano ci è sempre una carta di cui non sapevamo. Ciò mi fa supporre di comportarmi in questo modo con gli altri e il vedere quante volte gli altri si comportano palesemente in questo modo con me. Ci illudiamo tutti di conoscerci l'un l'altro a menadito. Proprio perché spesso più che conoscere una persona ci facciamo di questa una nostra opinione e con questa opinione ci relazioniamo con essa. Oggi molte persone ritengono Gesù un filosofo perché sapeva di tutto, parlava di tutto e rispondeva a tutti da turar la bocca anche ai più sapienti. Altri vedono Gesù come un martire vittima della sua franchezza nel denunciare ogni ingiustizia. Altri ancora ritengono Gesù un illuminato fanatico con un piccolo gruppo di seguaci, mentre ci è chi lo ritiene un taumaturgo perché guariva tutti. Infine vi è chi ritiene Gesù un politico perché era dalla parte dei deboli, o semplicemente un personaggio storico che ha lasciato una bella biografia per bambini e vecchi. Nonché, che dire. Tutte queste opinioni mettono in evidenza quanta ignoranza vi sia sull'identità di Gesù, nonostante se ne senta parlare ogni domenica dai pulpiti ritenuti cristiani. E nonostante sia annunciato anche in Mondovisione dal Papa, l'autorità religiosa del cattolicesimo. Questa discordanza sulla persona di Gesù dovrebbe farci riflettere su come sia facile avere un'opinione sbagliata di lui, e dovrebbe maggiormente mettere in discussione l'opinione comune che abbiamo di Cristo. Gli errori altrui dovrebbero metterci in guardia della possibilità di commettere lo stesso errore, come chi va a scuola guida dovrebbe stare molto attento agli errori degli altri per non commetterli a sua volta. Così, la seconda domanda espressa da Gesù riguardo a che cosa pensiamo di lui dovrebbe accendere il campanello di allarme, inducendoci a ricercare se la nostra opinione corrisponde alla realtà. Prima di rispondere alla domanda di Gesù, forse è interessante vedere cosa replicarono direttamente i suoi contemporanei. Alcuni dissero che aveva un demonio, e questo perché cacciava degli spiriti maligni. Altri perché preferiva stare con dei peccatori e con delle prostitute. Dicevano che Gesù era amico delle prostitute, definizione questa, che aveva tutto il sapore di una offesa. Altri ancora, poiché Gesù perdonava i peccati altrui commessi nei confronti di Dio, dicevano che bestemmiava. Infine, a chiudere il cerchio di queste opinioni assurde su Gesù, vi erano delle persone che lo ritenevano un bugiardo e un pazzo. Se non fossi un cristiano, direi che queste opinioni in merito a Cristo mi danno la certezza che Gesù non sia niente di tutto quello che le persone pensavano di lui. Quando le opinioni sono evidentemente discordanti, possiamo essere certi che la verità è un'altra. Resta da rispondere alla domanda di Gesù circa che cosa pensiamo di lui. Chi è Gesù per te? Questa non è una domanda qualunque. Non ti chiedo chi è per te Napoleone o Garibaldi, perché qualunque risposta tu dia non cambierebbe nulla nella tua vita, dato che queste due persone non ci sono più. Se Napoleone o Garibaldi fossero in vita e ti dessero un ordine, dovresti ubbidire, perché il primo era un re, il secondo un comandante. È vero che anche Gesù è morto, ma il terzo giorno è risorto, facendosi vedere a molte persone. Perciò rispondere alla domanda chi è Gesù per te presuppone che tu sia a conoscenza e creda che Gesù è risorto. Nel mondo cristiano è opinione comunemente scontata che Gesù fosse Dio. Tant è vero che è esistita un'accusa storica rivolta al popolo ebraico per aver messo Dio in croce. Ma poiché Dio non può morire, essendo eterno, il fatto storico della morte di Gesù certifica che egli non fosse solo Dio in sembianze umane, ma un vero uomo. La sua risurrezione, poi, giacché gli uomini normalmente non risorgono, indica che quest'individuo non fosse un semplice vero uomo, ma qualcosa di più, ossia che egli fosse anche Dio, perché solo Dio ha il potere sulla morte. Affermare che Gesù è Dio non è come dire che Napoleone era un re o Garibaldi un condottiero. Perché se Cristo Gesù è Dio, allora abbiamo a che fare con la persona più importante, più grande, più terribile, più temibile che possa esistere. Non è possibile rimanere indifferenti nei confronti della divinità di Gesù. Potevano essere insensibili i contemporanei di Gesù nei confronti della sua divinità perché non ci credevano? Potevano anche non tremare i discepoli davanti a Gesù perché non avevano capito proprio nulla di chi era, se non che fosse un maestro. Ma noi che abbiamo la testimonianza di tanta gente e una conoscenza più ampia della persona di Gesù, non possiamo far scivolare la notizia della divinità di Gesù come acqua sul vetro. Vi sono persone che ostinatamente ritengono di credere in Gesù ma non hanno ancora capito cosa significa credere in Lui. Credere in Gesù significa rifiutare di compiere ciò che Lui ritiene sbagliato. Credere in Gesù non significa fare quello che si è sempre fatto e aggiungere in più i bei comandamenti di Dio, quali, per esempio, amare il prossimo, fare del bene, leggere la Bibbia e pregare, perché anche gli increduli fanno questo. Vi sono persone che si dichiarano incredule, però sono favorevoli a opere buone, alla pace e all'armonia. E alcuni di essi pregano anche. Ma questo non è il risultato di una fede in Cristo. Gesù oggi come ieri viene messo nel calderone delle religioni, è un articolo in più nel supermercato delle fedi, è una persona da onorare e da stimare. Nulla di più. Della sua divinità non se ne parla, anche perché prendere coscienza che Gesù è Dio è un obbligo morale non indifferente. Forse la cosa più saggia da fare per conoscere Gesù è ascoltare e credere ciò che Lui ha detto di se stesso. Questo atteggiamento forse è il più raro e onesto che esista, e solo Dio può sradicare le nostre convinzioni sbagliate. L'atteggiamento più difficile nei confronti di Gesù è quello di essere convinti della propria ignoranza e dell'immenso buio spirituale in cui si è sommersi. E, per questo che i saggi, scribi e farisei, persone che conoscevano la legge di Dio e la insegnavano, non credevano a Gesù. Mentre le semplici persone, quali pastori e contadini, pendevano dalle labbra di Gesù. Gli studiosi della legge di Dio lo assalivano e lo provocavano. Più di una volta ho notato che, nell'ascoltare l'Evangelo, le persone sono molto aperte e disponibili, ma quando si tratta di accettare Gesù quale Dio, Signore e Salvatore, le domande più impensabili, i ragionamenti più contorti, le scuse più evidenti, escono dalla loro bocca come un fiume. Finché si tratta di ascoltare il bel messaggio di Gesù offerto in dono, per loro non ci è nessuna difficoltà, come non vi è nessuna difficoltà nell'accettare un qualsiasi altro dono, ma come lo Spirito Santo parla al loro cuore della necessità di rinunciare alle proprie convinzioni, di consacrare senza nessuna riserva la loro vita a Cristo, di credere che le loro buone opere e le preghiere non servono a nulla per ottenere la salvezza, allora Gesù diventa una persona scomoda, un argomento non adatto, una persona da ascoltare un'altra volta e non ora. L'Evangelista Giovanni riporta una breve conversazione svoltasi tra Gesù e i sapienti della legge di Dio che fa il caso nostro. Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni farisei, che erano con lui, udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane». Giovanni 9, 39-41. Gesù si è dichiarato colui che sa come stanno le cose, si è dichiarato colui che spiega le cose, e credere in lui significa accettare che noi siamo ignoranti, camminiamo nel buio, diciamo, ma non sappiamo nulla in merito a Dio e alle cose spirituali. Era inevitabile che i sapienti religiosi si offendessero, e Gesù rincalza, condannandoli perché dicevano di capire, di sapere, di avere l'autorità di insegnare le cose di Dio. Ma non era vero. Dopo 2000 anni coloro che si ritengono intelligenti hanno la stessa reazione. E allora? Chi è per te Gesù? Se è la tua luce, la tua sapienza, il tuo Salvatore, i tuoi peccati ti sono perdonati diversamente, il tuo peccato rimane. E non hai nessun interesse a tenerti la ragione della tua condanna. Dicembre 2005. Contributo: Vivere con Gesù, oggi, EON Juan Carlos Ortiz. El Lero.